Storiacce di Raffaella Calandra. Bellissime, ci sono le opere del Tiepolo, un bellissimo ritratto attribuito a Guercino, una bellissima tavola a fondo oro rubata in Toscana del 1400, c'è un Lelio Orsi bellissimo, Lei del Cigno, un'opera veramente unica che è stata portata illegalmente fuori Italia. Ci sono dei vasi bellissimi di provenienza di scavi clandestini nell'Etruria meridionale, ma anche qualcuno appunto nella zona della Puglia. Questi sono i nostri tesori che momentaneamente custodiamo nel nostro cavò. Come in una specialissima mostra, si cammina davanti a tesori senza tempo e dall'infinito valore quando si entra nel cavò del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri. Qui epoche e stili si susseguono come le provenienze di tele, anfore e sculture recuperate da ogni parte del mondo, sottratte a collezionisti senza scrupoli, salvate da vendite su piattaforme online, recuperate, quando si riesce, tanto dalle mani di avidi tombaroli quanto da tech di importanti musei. Si può trovare di tutto quando ci si immerge nel traffico di opere d'arte, dai reperti archeologici usati per finanziare il califfato alle opere comprate dai boss per riciclare i soldi sporchi, alle tele utilizzate come strumento di corruzione. Ed è da qui allora che parte questa puntata di Storiacce. La filiera classica, colui che fa lo scavo clandestino, l'esperto che anche sa di poter valorizzare quello che è il risultato dello scavo clandestino, la persona che poi le mette sul mercato, che oggigiorno come mercato anche telematico, e poi quindi l'immissione sul mercato con il trasferimento, con quindi anche lo spostamento della merce, vale a dire quindi la vendita, il trasferimento logistico. Fila il più delle volte è questa, ma spesso a mancare è innanzitutto l'esperto. Così ci si ritrova anche con intercettazioni come quella captata in un'inchiesta tra Amalfi e Ravello di recente. Che dici di 200 euro per Gattuso? Si chiedevano due indagati. E qui lo sconcerto oscilla tra la confusione del celebre calciatore barese con l'importante pittore di bagheria Renato Guttuso, ma anche per il prezzo del tutto irrisorio attribuito alla tela che si voleva vendere sotto banco. Come in una pesca a strascico, nel mercato nero delle opere d'arte si può trovare di tutto, infatti, anche se gli ultimi dati del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale registrano comunque una diminuzione leggera dei furti. 58.000 i reperti archeologici recuperati l'anno scorso, 24.000 quelli archivistici e librari. E ultimamente sempre più spesso si trovano reperti provenienti da scavi clandestini in Siria e Iraq, dove squadre di nostri carabinieri stanno formando personale locale perché intervenga a bloccare furti che finiscono per arricchire le casse dell'ISIS. Come sempre succede durante una guerra, ad essere in pericolo sono anche i tesori d'arte, come racconta il generale Fabrizio Parrulli, comandante del nucleo che incontriamo a Pestum, a margine della Borsa Mediterranea del turismo archeologico. Da sempre, quando ci sono paesi in crisi o in guerra, il traffico di oggetti, di beni d'arte o di interesse archeologico, come in questo caso provenienti dai paesi del Medio Oriente e dal Nord Africa, è una delle caratteristiche. Le Nazioni Unite hanno evidenziato come finanziamento del terrorismo di matrice jihadista avviene anche tramite appunto la vendita di oggetti, soprattutto di archeologici. Qualsiasi attività commerciale in quelle aree, nelle aree sottoposte al controllo dell'ISIS, ha un dazio da pagare, ha una tassa da pagare, e questa tassa anche sulle transazioni di beni d'arte costituisce questo un sistema di finanziamento appunto del terrorismo internazionale. L'anno scorso, se non sbaglio, a Roma c'era stata anche in una mostra l'esposizione di un paio di reperti che erano stati trovati a casa di un collezionista che provenivano proprio dagli scavi siriani ed era stata identificata come appunto una provenienza chiaramente illecita. Immagino che come questi ci siano anche altri elementi su reperti a volte anche più piccoli che possono essere più facilmente inseriti nel mercato nero. Noi abbiamo sequestrato degli oggetti provenienti da Palmira, una stele funeraria molto bella. L'attenzione comunque del comando è molto forte in questo senso, nell'attività di smercio, soprattutto oggigiorno sul mercato online, perché è uno dei sistemi di vendita più diffuso, è quello che più vede anche impegnato il nostro comando nell'attività di controllo e di verifica delle piattaforme informatiche, qualsiasi esse siano, perché non sono soltanto le grandi case d'asta a vendere online, ma anche oggigiorno qualsiasi delle più grandi organizzazioni che appunto vendono non soltanto beni archeologici o beni d'arte, ma anche qualsiasi altro oggetto. Quindi, insomma, per intenderci, può capitare anche di trovare su Amazon, per dire la più celebre e la più universale, opere d'arte casomai che di dubbia provenienza. Ma se un tempo era soprattutto la figura dei tombaroli a in qualche modo immettere nel mercato nero corredi funerari e opere prelevate da scavi e a venderle, in genere il percorso era attraverso collezionisti, galleristi che insomma più o meno che facevano più o meno finta di non sapere della provenienza. Ecco, rispetto a queste opere qual è il percorso? È possibile un po' tracciare un percorso anche delle figure intermedie che portano poi queste opere scavate illecitamente a finire dove? Il fatto che oggigiorno le vendite online non sono fisicamente identificabili in maniera precisa, questo comporta anche a volte una difficoltà nella identificazione dei canali da seguire per arrivare a raggiungere quindi l'obiettivo, cioè quello di recuperare gli oggetti. Una persona può mettere in vendita un oggetto su una casa d'aste, per esempio in un paese, faccio un esempio, la Germania. Magari questi oggetti che mette in vendita non si trovano in Germania fisicamente, ma in un altro paese, per esempio negli Emirati Arabi Uniti, e vengono venduti e magari acquistati da una persona che si trova negli Stati Uniti. Credo che questo non sia un esempio, non siano paesi che lei abbia citato a caso. A cosa si riferisce? Il caso è un caso concreto che abbiamo seguito, dove abbiamo individuato un canale di smercio di oggetti provenienti da scavi clandestini nel sud dell'Italia, dove delle monete di origine greco-romana sono state appunto vendute da una casa d'asta tedesca, ma materialmente queste monete si trovavano negli Emirati Arabi Uniti e sono finiti negli Stati Uniti, a Boston. Siamo riusciti a individuarle e a recuperarle, quindi a poterle a farle restituire. Questa cerimonia di restituzione di queste opere, insieme a tante altre, è avvenuta proprio la settimana scorsa presso il Consolato Generale d'Italia di New York. È sempre bello, sono sempre anche particolarmente, anche a volte toccanti, queste cerimonie di restituzione e di ritorno in Italia di opere celeberrime. Ormai negli ultimi anni è stato proprio un lavoro intenso quello del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale, quello di recupero di opere importanti italiane sparse anche in molti importanti musei che, diciamo, che per un po' di tempo hanno fatto finta di non sapere che erano arrivate opere celeberrime come la Venere di Morgantina con una provenienza non proprio lecita. Ecco, qual era in genere il percorso che avveniva, e anche in questo caso in origine c'era un classico tombarolo o qualche figura anche, diciamo, d'altro tipo che aveva immesso nel mercato nero queste monete? C'è molta più sensibilità, soprattutto dalle istituzioni museali, a essere molto più attenti e molto più saggi nelle scelte di acquisto. Questo nasce da una grande anche sensibilizzazione, che è una campagna di sensibilizzazione che ha fatto anche il Comando Carabinieri di Tutela del Patrimonio Culturale. E si instaurano anche delle trattative, quelle della cosiddetta diplomazia culturale, per riuscire a rientrare in possesso di oggetti quando purtroppo anche l'attività investigativa non riesce a chiudere il suo cerchio. Queste monete chi le aveva svendute? Quella che è la filiera classica, dove c'è colui che fa lo scavo clandestino, l'esperto che anche sa di poter valorizzare quello che è il risultato dello scavo clandestino, la persona che poi le mette sul mercato, che oggigiorno, come dicevamo prima, è un mercato anche telematico, per cui non necessariamente poi deve trasferirle nel luogo da dove vengono poi vendute, e poi quindi l'immissione sul mercato con il trasferimento, con quindi anche lo spostamento della merce, vale a dire quindi la vendita, il trasferimento logistico fatto magari anche da una delle società logistiche di trasferimento. Ecco, recentemente abbiamo fatto un'attività di indagine dove in Calabria abbiamo sgominato una banda dove era presente tutta la filiera, coloro che facevano lo scavo clandestino, un noto professore, tra l'altro conosceva molto, molto bene le zone archeologiche dell'area del Crotonese, e che quindi dava indicazioni anche dove andare a scavare, che cosa verosimilmente trovare. Il ricettatore che la persona che in una città diversa, Taranto, dove arrivavano poi questi oggetti, lì tramite contatti con una casa d'asta in Germania, li immetteva sul mercato. Quindi fisicamente non erano più in Calabria, erano nella disponibilità di questo ricettatore nella zona della Puglia, ma venivano venduti poi sul mercato tedesco o comunque internazionale, perché poi alla fine si disperdono velocemente e rapidamente sul mercato internazionale. Ecco, prima di chiederle ancora un aspetto anche su questa vicenda, perché la Calabria porta con sé anche un altro fronte, che è quello di come il traffico di opere d'arte sia anche uno dei canali di riciclaggio classici delle mafie, per chiudere questo primo aspetto volevo chiederle: nel momento in cui c'è una guerra aumenta anche il traffico di opere d'arte illecitamente esportate e vendute da quelle zone, immagino. Sì, abbiamo notato anche noi questo incremento, ecco. Devo dire che la sensibilizzazione però dell'opinione pubblica che viene fatta da tutti quanti, non soltanto da noi ma anche a livello di governi centrali, anche in alcuni paesi come negli Stati Uniti, in Canada, parlo soltanto dei paesi della Nord America, o anche nei paesi europei, e un suo risultato probabilmente lo sta iniziando a dare, cioè ecco, quindi di scoraggiare l'acquisto di oggetti provenienti da quell'area. Perché l'acquisto di quegli oggetti essenzialmente beni archeologici provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente, comunque anche se involontariamente in quella maniera acquistandoli, uno potrebbe finanziare il terrorismo di matrice jihadista. Ecco che la forte sensibilizzazione che oggigiorno stiamo anche noi sollecitando, ecco, nelle coscienze dei cittadini di non acquistare, quindi di essere molto cauti nell'acquisto, probabilmente sta ottenendo i risultati che noi speriamo. Ma l'arte è da sempre anche un investimento per le mafie, che così provano a ripulire i soldi sporchi insieme all'immagine. Come da tempo ormai anche tele e sculture sono diventate strumenti di corruzione e sono state trovate anche nell'ambito dell'inchiesta romana Mondo di Mezzo. L'arte resta poi un boccone ghiotto per bande di criminali che si arricchiscono anche spogliando delle sue opere le 40.000 chiese sparse sulla penisola. E la prima fondamentale azione per evitarlo è conoscere ciò che si possiede. E da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta. La salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Siete d'accordo con me? Allora seguitemi, state con me ogni giorno. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto mezzogiorno con Obiettivo Salute. E al sabato, sempre a mezzogiorno, con Obiettivo Salute Weekend, per conoscere tutta la verità su prevenzione, ricerca, cura, stile di vita. Io vi aspetto e non mancate. A proposito di verità, la frase di apertura non è mia, è di Schopenhauer. Adesso lo sapete. Vi aspetto. Storiacce. Più famoso è senza dubbio quello della Natività di Caravaggio. La celebre tela fu trafugata a Palermo dalla mafia nel 1969 e da allora notizie si sono mescolate a leggende. Perché l'arte, per i boss, non è solo uno strumento prezioso per riciclare soldi sporchi, ma resta anche uno dei principali status symbol per chi vuole riscattare la propria immagine. E non di rado nelle case di criminali di vario genere si trovano opere importanti, e questo è successo anche nell'inchiesta Mondo di Mezzo di Carminati & Company. E allora, pur seguendo il cammino delle opere rubate, si può arrivare agli affari sporchi dei clan, ed è anche questo che il nucleo di tutela del patrimonio culturale, guidato dalla generale dei carabinieri Fabrizio Parrulli, sta facendo. Chi ha disponibilità di denaro, chi ha disponibilità di grandi quantità di denaro, ha interesse a investire in diversi settori, in diversi campi, per far fruttare questo denaro. Uno dei settori di investimento è anche quello dell'arte, che ha anche un'altra funzione, anche quella di magari affrancarsi da un cliché di anche criminale violento, quindi con greve, con poca cultura. Benissimo, e quindi questo sta anche a sottolineare che si è usciti da una certa, da un certo, ecco, appunto, cliché. L'investimento poi nel settore dell'arte è un investimento che nel tempo può dare i suoi frutti. L'abbiamo visto negli anni 90, quando gli oggetti d'arte venivano utilizzati anche per il pagamento di alcuni favori, quindi erano uno dei sistemi utilizzati per la corruttela, quindi per corrompere anche nella purtroppo pubblica amministrazione. Il frutto della corruzione erano opere d'arte, quindi opere di grande valore. Ecco che l'opera d'arte viene utilizzata come un sicuro sistema anche di pagamento e un sistema sicuro di investimento per il futuro. Nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo, quella che normalmente viene chiamata anche Mafia Capitale, sono state rinvenute nelle abitazioni di alcuni dei personaggi delle opere di un certo pregio, ecco, di grande interesse. E sicuramente l'acquisto di queste opere è avvenuto tramite canali che sono quelli appunto di soldi che sono stati acquisiti per altre attività illecite. Ecco. Anche perché quando si tratta di transazioni alte che avvengono per lo più in cash, è sempre la spia di soldi di dubbia provenienza. È uno dei sistemi per appunto riciclare il denaro, l'acquisto di opere d'arte in contanti. Saranno forse meno eclatanti e in alcuni casi anche di minor valore, ma la maggior parte dei furti interessa opere trafugate in scavi clandestini dei tanti siti archeologici non ancora scoperti, soprattutto nel sud Italia, oppure opere provenienti dalle tantissime chiese che custodiscono un patrimonio enorme e soprattutto per anni non del tutto conosciuto. Ed è allora che la prima e fondamentale azione avviata per cercare di difendere l'arte è conoscerla, anche attraverso una catalogazione di tutto quello che è custodito, ad esempio, nelle chiese. La catalogazione è fondamentale e sapere che cosa abbiamo innanzitutto, quello che dobbiamo proteggere, è il passo fondamentale per la protezione. Il Ministero dei Beni Culturali ha sottoscritto un accordo nel 2012 con la Conferenza Episcopale Italiana proprio per la catalogazione, quindi per rendere più facile la tutela del patrimonio culturale immenso delle chiese. Sono più di 40.000 le chiese sparse su tutto il territorio nazionale. Siamo a buon punto, la maggior parte delle diocesi ha quasi portato a termine la catalogazione dei beni presenti. Molti musei diocesani hanno raccolto le cose più importanti delle varie chiese che, per ragioni anche legate a motivi di culto, non sono magari dotate a volte di sistemi di videosorveglianza, per una questione anche di privacy, per una questione anche a volte di risorse. È possibile avere una cifra di quanti possono essere già le opere inserite, ecclesiastiche inserite in questo database? Siamo sul 90-95% già delle opere ecclesiastiche di tutte appunto le istituzioni museali e chiese italiane, con questo per quanto riguarda la Conferenza Episcopale Italiana. Quindi siamo a un buon passo. Certo, la difficoltà a volte di poter avere la certezza che tutto questo immenso numero possa essere garantito e tutelato, salvaguardato, e purtroppo è difficile. Effettivamente, andando a vedere anche i numeri degli furti che ci sono stati per esempio nel 2016, la maggior parte riguardano proprio chiese e quindi istituzioni che fanno capo alla Chiesa Cattolica. Il trend rispetto all'anno precedente? Per fortuna il trend è positivo, cioè in termini sono meno rispetto all'anno precedente. E questo perché c'è innanzitutto grande sensibilità anche da parte degli stessi cittadini, che sono i primi a custodire gelosamente i loro patrimoni delle loro piccole comunità. Abbiamo avuto riprova anche per esempio con le zone colpite dal terremoto, dove gli stessi cittadini hanno costituito un presidio attivo anche di tutela del loro patrimonio, che purtroppo è stato anche danneggiato, distrutto appunto dal terremoto. Abbiamo recuperato più di 21.000 opere nelle zone appunto del Lazio, dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto. Il trend comunque è positivo perché c'è un minor numero di furti rispetto agli anni precedenti e un maggiore controllo e anche la catalogazione, che consente di arrivare immediatamente anche all'individuazione delle opere rubate. Forse nel sud ci sono più chiese chiuse anche. È vero, anche nel sud ci sono più chiese che non sono disponibili appunto per la fruizione. Abbiamo recentemente infatti proprio portato a termine un'attività investigativa che ha portato a investigare sul comportamento di 20 personaggi legati, una banda che operava nel centro-sud Italia, nelle zone anche della Campania, della Molise, del sud del Lazio, ma anche ogni tanto che si spostava verso il nord. Abbiamo recuperato più di 100 beni provenienti da 20 furti avvenuti in zone, appunto in chiese soprattutto. Cioè mappavano le chiese che potevano contenere opere d'arte più di pregio e più facilmente vendibili sul mercato nero? Sì, ma anche perché a volte si tratta di gruppi che svolgono un'attività anche di sopralluogo per vedere quello che può essere più facilmente anche portato via. e immettevano sul mercato quello dell'antiquariato, anche dei piccoli mercati, quelli classici dove si vendono anche oggetti di antiquariato, per poter fruttare anche a volte non grandi cifre, ma cifre che oggigiorno anche per necessità molta gente si dedica a questa attività purtroppo di furto. Ma è una banda collegata con organizzazioni criminali o una banda di piccoli delinquenti, chiamiamoli così? Una banda di piccoli delinquenti. Non c'era nessun rapporto con malavita organizzata? Un rapporto con organizzazioni criminali particolarmente complesse, organizzate. Di recente siete anche, la vostra attività è finita anche sul New York Times per la restituzione di una statua di Sant'Arcangelo in un paesino del Molise. Monte Riduni, sì, è vero, è una bellissima statua che abbiamo recuperato proprio nell'indagine di cui accennavo prima. È stata restituita alla comunità locale con una cerimonia che soprattutto ci ha coinvolto anche noi molto emotivamente per con tanto di banda la partecipazione attiva appunto della comunità locale. Ecco, se non sbaglio mancava da oltre 20 anni quella statua il cui culto era molto sentita in questo in questa comunità, per cui diciamo c'è stata una grande anche commozione nel momento in cui l'avete restituita. Però generale, anche in questo caso, come già lei accennava prima, si ripropone il tema della sicurezza, cioè della grande facilità con cui opere di cui forse non sempre ci si rende neanche conto del valore, possono essere un po' alla mercé di chi vuole rubarli. Introdurre anche nelle diocesi la cultura della necessità di proteggere anche con dei sistemi di allarme il loro patrimonio? Le opere più importanti possono essere sicuramente trasferite nei musei diocesani, che sono poi dotati di sistemi sicuramente di controllo e di sicurezza maggiori rispetto alle piccole chiese. È importante che anche le comunità locali siano partecipi attivamente al sistema sicurezza. Questo lo diciamo anche in altri contesti. E a voi è mai capitato di sentire di opere trafugate casomai dalla chiesa del vostro paese e mai più ritrovate oppure recuperate dopo anni? Se vi va, scriveteci a storiacce@radio24.it oppure ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.